Di Giovanni Minoli. C'è qualcosa che non va. Si vuole rottamare la nostra. Hanno votato no in modo netto le nuove generazioni. Tra gli under 35, 7 su 10 hanno bocciato la riforma. Tra gli under 34 il no sbanca, 81% contro il sì al 19%. Matteo Renzi. Perché i giovani non lo votano? Evidentemente perché le risposte che lui ha dato alla disoccupazione, il Jobs Act, la buona scuola, i voucher, non sono state recepite in maniera positiva dai giovani. La prima generazione al mondo di giovani contrari al cambiamento. La prima generazione di giovani per la conservazione. Se tu sei un rottamatore, quarantenne, e non ti votano i giovani, qualcosa non funziona. Detto no, e chi ha detto no sono i giovani. Il 72% dei giovani tra i 25 e i 34 anni ha bocciato la riforma costituzionale. In poche parole, Renzi è stato mandato a casa dai suoi coetanei, da chi in teoria lui avrebbe dovuto rappresentare più di tutti. Ilvo Diamanti, che è docente di scienza politica all'Università di Urbino, la Sorbona, sulla Repubblica ha stilato un loro identikit molto preciso. Il dato che ha colpito di più e sì, l'altissima partecipazione al voto, ma con una differenza significativa. Esattamente quale, dottor Diamanti? C'è una distanza abbastanza evidente tra i giovani più giovani, i giovanissimi. I giovani 18-24, diciamo. Esattamente, quelli che normalmente noi collochiamo in una fascia che teoricamente sarebbe quella della dipendenza dalla famiglia, e coloro che invece dovrebbero aver già cominciato la vita adulta. Noi consideriamo l'età adulta quella non tanto della maturità, che è un giudizio, come dire, di relativo, valore, certo, quanto dell'autonomia dalla famiglia d'origine, ecco, dei genitori. Quindi, che non avviene, vero? E che non avviene. Quindi i giovani adulti, quelli appunto tra 25 e 34 anni, che sono in difficoltà e non riescono a affrancarsi dalla famiglia, quindi a diventare autonomi, hanno scelto il no per questi motivi, in qualche modo imputando? Che nel momento in cui viene sintetizzato, come ha fatto qualcuno, cioè in questo caso il Premier, viene personalizzato in modo estremo, è difficile non ricondurre questo no come un no a chi ha promosso il referendum, certo, e ne ha fatto un referendum su se stesso. Quindi hanno detto no a chi rappresenta questo governo, cioè questo sistema. Questi giovani adulti, come dicevamo, quelli tra 25 e 34 anni, secondo lei si sentono rappresentati dal Movimento 5 Stelle? Comunque il Movimento 5 Stelle è nettamente il soggetto politico più votato in questa e da questa generazione. Però questa generazione può essere definita, e per questo si è riconosciuta in questo no, una non generazione, è una generazione a metà. A metà, non sono, certo, né giovani, infatti, né infatti vengono chiamati giovani adulti questi tra 25 e 34 anni, che però è molto curioso che il più giovane premier della storia del paese è, in realtà è proprio loro che non ha conquistato. Il voto è diventato un voto, come dire, di generazione che probabilmente si è ulteriormente caratterizzato in questa fascia d'età, sì, perché è una fascia d'età che ha i problemi più grandi, maggior ragione, a maggior ragione non si riconosce in lui, proprio perché i loro problemi non sono risolti, esatto, esattamente, non si rispecchia in quello che vorrebbe, dovrebbe essere maggiormente di altri uno specchio. Ecco, due su tre tra questi giovani vive infatti ancora coi genitori, il doppio rispetto ai coetanei francesi e tedeschi. Guardi, questo è interessante, lei giustamente dice vive con i genitori, sì, due su tre. In realtà non è vero, risiedono con i genitori, anche se i genitori non li vedono quasi mai, proprio certo, perché per avere una carriera bisogna andarsene dall'Italia, certo. Io insegno da più di 20 anni a Parigi, lo so, perché li vede arrivare. Lei ci pensa, non so, Resigni, Regeni, questa è gente che va in giro per il mondo a studiare, certo, a fare la propria esperienza di vita, può farla perché a una casa in senso lato. In senso lato c'è anche un sostentamento, ovviamente. Esatto, ecco. E quindi una, rischia di essere una generazione non generazione, una generazione incompiuta, in attesa ancora dell'età adulta, perché l'età adulta significa l'età dell'autonomia. Autonomia, della ecco, professor Diamanti. Inoltre, il 40% di questi giovani adulti ammette, peraltro, di sentirsi spesso solo. Ecco, che significato dà lei a questa definizione di solo? Non è una solitudine dettata da relazioni, perché questa è l'età delle relazioni reali. Certo. Loro hanno amici, hanno... amori, tutto. Si sente sola perché non ha, tra virgolette, istituzioni, gruppi, organizzazioni complici. Nel definire le generazioni quando esistono, la differenza tra una generazione e una coorte d'età è data dagli anni della formazione. Allora, questi sono nati tra anni 80 e 90. In pratica, questi si sono socializzati, avevano 15, 20 anni, 10 anni fa. Eravamo in piena epoca ed era di berlusconismo. Io non me la prendo con il berlusconismo che viene utilizzato come la causa di tutti, di i, tutti mali. I mali, sì, forse. Ma è una fase è nella comodo, quale sì. Sì, però la frattura non è una frattura politica. La mia generazione è cresciuta, che so, contro il capitalismo, certo, contro, cioè, che pensava a un futuro nel nome, che so, del socialismo, del terzo. Qui invece forse si sognava un consumismo che poi in realtà non corrispondeva alla possibilità di organizzarsi una vita in funzione di quello. Certo, un benessere che significava stare bene, significava stare bene. E che era un sogno irraggiungibile che si è verificato. Ma lei pensa a un'epoca nella quale la frattura, come la chiamiamo noi, il cleavage politico determinante era essere pro o contro Berlusconi. Certo. Vengono i brividi. Cioè, brividi, perché era un po' poco veramente. Retrospettivamente, certo, sono cresciuti e si sono socializzati in un'epoca nella quale le alternative erano pro contro Berlusconi, esattamente. Esatto. Quindi una rottura culturale, una rottura culturale comunisti. Esatto. Ma noi l'abbiamo appunto a suo tempo abbiamo fortemente criticata, anche perché era un sistema politico bloccato. Ma dietro c'erano storie e valori. E poi c'è un c'erano sistema di valori, sociali. Certo. Mentre adesso il valore principale è se ho... Cioè, invece che la pubblicità c'era la cultura, invece che la pubblicità c'era la cultura. La cultura politica, certo, c'era la socialità, esatto, c'erano modelli di organizzazione, esatto, sociale. Ma poi sa che c'è una questione di fondo, che il problema è che qui non sappiamo più chi sono i giovani e chi sono gli adulti. In una società come questa la giovinezza si vorrebbe non finisse mai. Esatto. Ma lei sa a che età gli italiani ammettono di non essere più giovani? A 50 età? Anni. A 50 anni. Ma si è anche allungata quando... molto la vita e anche la salute. Sì, ma sa, fra poco resto giovane anch'io. Allora rivendico il mio diritto a invecchiare. Sono d'accordo. Diventare adulto, almeno adulto. Diventare adulto, magari anziano. Mario, beh, interessante l'analisi di Diamanti, perché questa cosa dell'abitudine alla contrapposizione pro Berlusconi e anti Berlusconi ha impoverito molto lo schema valoriale sul quale confrontarsi. Sono assolutamente d'accordo. Ha impoverito la politica, ma siccome noi siamo la politica, ha impoverito i cittadini tutti. E c'è anche un altro aspetto da considerare, secondo me, che è, diciamo, complementare a quello che diceva Diamanti, e cioè il mercato del lavoro. Assolutamente. Il tasso di inattività in Italia è 35%, ci sono quasi 14 milioni di inattivi tra i 15 e i 64 anni, quindi c'è il volto di questi giovani che non hanno lavoro e non cercano lavoro, ma anche di anziani che sono inattivi e non partecipano poi, più, diciamo, e poi questa, al e poi lavoro questa sociale. Riforma del Job Act, che si chiamava riforma a tutele crescenti, le tutele crescenti sono rimaste abbastanza nel cassetto, Pietrangelo. Sono decrescenti, sì, in realtà. Sì, infatti la vera lettura da fare è tutta affidata alla realtà. Lui, Renzi, aveva giocato tutto in questo referendum, confidando soprattutto nei giovani, soprattutto in quella realtà che doveva rottamare ciò che restava da rottamare ancora. ed è mancata l'appuntamento proprio perché tutte quelle belle cose che leggiamo nei giornali, quelle belle cose di cui si parla nei mass media, non corrispondono alla realtà vera, perché anche l'Italia dei voucher poi non va a corrispondere con la realtà dell'immensa provincia italiana, dove la stragrande maggioranza dei giovani ha soltanto una prospettiva, quella di scapparsene, di andarsene via. Esatto. Fabio da Marostica ci dice: Mignol, per favore, lo lega, noi lo leggiamo. I giovani sono favorevoli al cambiamento, ma si informano con internet, non si fanno influenzare da giornali e TV compiacenti con l'establishment, e Renzi ha fatto poco e male senza la dovuta trasparenza. Questo Fabio da Marostica, che comunque anche lui sottolinea una difficoltà in realtà poi di comunicazione, cioè come sempre. È stata una comunicazione, questa comunicazione così, così moderna apparentemente, è una comunicazione che in realtà si è fermata alla superficie del racconto, 140 alle immagini, Twitter. È importante, la questo non è quello che è una riflessione che non coglie mai il profondo. No. Ma poi quando lui sbucava in campagna elettorale, l'ho potuto verificare in quella landa desolata che è il mio sud, aveva sempre questa caratteristica, cioè quella di arrivare nella funzione, nel ruolo di premier, con una mobilitazione di uomini e di mezzi, e soprattutto avendo come platea le famose clientele, che poi oltretutto non hanno neppure corrisposto dal punto di vista elettorale. Ci sono stati capi bastone che hanno radunato le greggi, le hanno condotte tutte innanzi al presepe istituzionale organizzato in campagna elettorale, ma poi non ha trovato nulla. Mario, De Gaulle prima e Cameron dopo la Brexit, si sono dimessi e sono andati a casa. E hanno mantenuto la loro credibilità intatta. De Gaulle è stato richiamato, era nel suo buon ritiro di Colombelle des Églises, è stato ripreso e rimesso al potere. Questo stare un piede dentro, un piede fuori di Renzi ha intaccato la sua credibilità per il futuro oppure no? Allora sì, nel breve. Però c'è una ragione in tutto questo, sì. Facciamo un'analisi fredda, certo. È che Renzi sta lotterà in questi mesi per la sua stessa sopravvivenza politica, una battaglia durissima in cui si gioca veramente tutto. Vabbè, lui dice che quindi ripartirà per questo tour, per riavvicinare, per capire le cose che non ha ci capito. Ci vuole più di un tour, sarà molto difficile per lui, perché la profondità, scusa Giovanni, prego. La profondità della sconfitta referendaria è più grande di quello che si poteva immaginare, proprio per le ragioni che ha detto prima il professor Diamanti, quelle che stavi dicendo tu e le cose che diceva Pietrangelo, cioè la sua ripresa è possibile perché è giovane, ma sarà lunga. Lui deve fare una grande traversata nel deserto, non sarà una cosa di due giorni. D'altra parte, i leader che non fanno traversata del deserto non esistono. Esatto. Non sono statisti. Quindi. Stefano da Firenze. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Allora, nulla, ci tenevo a intervenire perché ho 24 anni, quindi mi sento sì, un po' chiamato in causa. Assolutamente. No? Allora, io sono operaio, lavoro in officina, quindi sì. Insomma, non è che ho studiato cose varie, però volevo dare la mia opinione certo, sulla linea generale mega. Di pensiero dei ragazzi. Allora, secondo me i ragazzi, a prescindere da qualsiasi forma di governo, da qualsiasi cosa viene fatta, avrebbero votato no, cioè qualsiasi fosse stata la riforma, perché hanno proprio un'intolleranza al governo, al sistema sì. che c'è ora. Quindi io non cioè, un no contro il potere, insomma, in generale. Sì, perché io ho votato sì al referendum, sì. perché penso di averlo un minimo capito e penso di essermi informato, ma sì. In generale i miei amici, perché ho avuto tante discussioni, certo. nel mio gruppo abbiamo fatto anche delle riunioni per confrontarci tra di noi su questa cosa del referendum. Insomma, il no era un no al potere, insomma. Sì, era un no al sistema, proprio in generale era un cercare di far capire che a noi così non va bene, così non ci piace, lo Stato a noi non ci aiuta mai, perché fondamentalmente un giovane è questo quello che sente, a prescindere un po' da quello che viene fatto adesso, anche Job Act, sì. Tanti ragazzi che io conosco non l'hanno preso come secondo me dovrebbe essere preso, ovvero almeno la mia interpretazione è che sia stato fatto per agevolare un po' le aziende, dargli un po' di flessibilità. Quello, il tentativo era quello, però era Jobs Act, a tutele crescenti, e le tutele crescenti sono un po' fermate, d'accordo? Sì. Va bene. Grazie della testimonianza, niente, Stefano, grazie. Senti, Pietrangio Diamanti dice anche che gli italiani ammettono di non essere più giovani a 50 anni, quindi tu, insomma, stai cominciando a entrare nell'età adulta? Io personalmente facendo, o sei ancora un bimbo? Io personalmente, facendo i calcoli secondo la nota canzone, che bella età, la mezza età, già a 40 anni mi consideravo tale, di mezza età, perché 40, altri 40 si arriva, quindi, si arriva a 80. E no, io credo che quello che sia intervenuto adesso, ed è ovviamente una dimensione globale, è che il cosiddetto millennials, questo essere nato, che si è formato nell'epoca, nell'era digitale, si ritrova senza un patrimonio. Perfino l'educazione sessuale non passa più attraverso il contatto umano. E questo ha determinato non tanto la consapevolezza di essere più o meno adulti o più o meno giovani, ma un'apnea dove nessuno ormai è in grado di avere un radicamento, un patrimonio comune da condividere nelle generazioni. Perché se non si ha la possibilità di vedere la differenza tra ciò che si è stati da figlio e tra ciò che si è da padre, già l'apnea finisce, coinvolge su tutto. Beh, noi abbiamo sentito molti giovani, per avere una carriera, per crescere comunque, scelgono di emigrare, di andare via. C'è anche chi decide però di restare e tentare di realizzarsi nel proprio paese. Gloria Giorgianni, che è una giovane producer, ha fondato Anele, che è una startup che si occupa di videoproduzioni di successo rivolte al futuro, ai giovani. Adesso sta lavorando a un progetto televisivo Italian che racconta storie di giovani italiani. L'idea nasce dal libro Cambiare il paese per non dover cambiare paese, di Gianluca Daluso, che è un 24enne di Riccione. Ecco, che racconta cosa? Questo libro racconta, sono dei dialoghi che fa Gianluca con una serie di esperti di settore che parlano su quali sono le scelte che i ragazzi intorno ai 25 anni fanno, se restare in Italia o andar via. Ah, ecco, ma i tuoi italiani sono gli stessi che Ilvo Diamanti su Repubblica ha chiamato i giovani adulti, cioè una generazione che è incerta, ha quasi come unica soluzione quella di andare via dal paese? In parte sì, Gianluca parte da una riflessione che è molto interessante, perché lui dice ci sono dei giovani che scelgono di andare fuori, noi raccontiamo i giovani che sono costretti ad andare fuori e cerchiamo di capire perché sono costretti, ma vogliamo anche raccontare in questo programma televisivo quelli che decidono e scelgono di rimanere. Ecco, che sono e quelli che decidono di rimanere e che restano e che ce la fanno. Perché ce la fanno? Ci sono delle caratteristiche che li accomunano? C'è sicuramente una grande passione per quello che fanno, ce ne sono tanti, e poi seguono le regole. Infatti noi la prima intervista che faremo la faremo al presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, perché per riuscire a fare bene quello che si vuol fare bisogna che le regole ci siano e che la gente le segua. Ma contro che cosa devono combattere i giovani per restare? C'è un nemico principale? Da quello che dicono loro e da quello che sente Gianluca, il nemico principale è la raccomandazione, è il non apprezzamento del merito, del talento, di quello che uno sa fare. Quindi la raccomandazione è il principale nemico. Quindi quelli che decidono di andare via vanno via perché vogliono in qualche modo cercare situazioni più meritocratiche? Sì, cercare il proprio spazio, cioè c'è una ricerca di essere valorizzati e di essere valutati per quello che uno sa fare, per quello che ha studiato. Certo. Ecco, però i dati della disoccupazione giovanile sono molto molto duri, anche se c'è stato un piccolo miglioramento a ottobre, ma la crescita di chi il lavoro non lo cerca più è quello che è veramente inquietante. Voi avete incontrato i cosiddetti NEET, cioè né impiegati né alla ricerca del lavoro? Li raccontiamo meno perché io credo che su quello c'è anche una parte, diciamo, soggettiva. Ci sono delle dinamiche, come dire, di crisi, e queste sono oggettive, però non bisogna mai mollare, bisogna sempre cercare qualcosa. Quindi noi raccontiamo storie di chi sta seguendo quello che vuol fare o in Italia o lo cerco di farlo fuori. Ecco, Italian, Gloria, racconterà storie, appunto, come hai detto, di chi parte ma anche di chi resta. C'è una storia in particolare che ti ha colpito di più? Sì, c'è la storia di Ugo Parodi Giusino, che è un palermitano di 34 anni, fondatore di una società che si chiama Saicun, che oggi ha circa 6-7 filiali in tutto il mondo, ma che mantiene la sede a Isola delle Femmine, a Palermo, in Sicilia, e quindi fa impresa dando occupazione a un centinaio di ragazzi. Ed è secondo me un segno molto importante, perché poi nel meridione, dove fra l'altro le percentuali dei ragazzi che hanno votato no è anche molto alta, più alta. Nel meridione questo tipo di impresa significa, a mio parere, anche fare una giusta antimafia, quella reale. Certo, col lavoro, creando lavoro. Ecco, Gloria, un'ultima domanda: che cosa deve cambiare nel paese secondo la vostra valutazione per non dover abbandonare questo paese? Qual è la prima cosa, la più importante? Un po' l'hai detto, per questo forse parti da Cantone, però un po' devono cambiare le regole, questo sì, ma deve cambiare anche questa mentalità, deve cambiare una mentalità culturale, cioè bisogna avere fiducia nelle possibilità di farcela. Abbiamo sentito che molti giovani che ci scrivono, si informano, giustificano e motivano il loro no con l'ampliamento, l'allargamento delle fonti di informazione attraverso internet, e quindi una possibilità di scegliere, di capire di più. Poi c'è anche l'altra faccia della medaglia. Roberto da Pistoia invece dice: proprio perché i giovani si informano su internet, dove c'è un proliferare di bufale, di slogan, nascono dei no a prioristici. Quindi il problema poi della qualità dell'informazione di internet è un problema che obiettivamente esiste, no? Mi pare disastro totale. Cioè, sulla rete circola della roba mai vista, purtroppo molti se la bevono anche. Naturalmente poi ci sono quelli che sanno fare selezione, e vabbè, ma per fare selezione giusta bisogna avere già però c'è anche il guaio corrispondente, il guaio corrispondente, che l'abbiamo visto, già esempi sono la Brexit, Trump, oggi il referendum, che è comunque l'informazione che non è altrettanto falsa. Sono d'accordo su questo, però diciamo che viviamo su un sistema di informazione che è falso, è sia nella versione internet che nella versione asimmetrica. Bisogna andare a cercarsi le cose e scegliere, bisogna e questo istruiti. Però interessante, c'è un'evoluzione anche dell'informazione in America, per esempio, che è molto costruita sui brand di chi parla, cioè l'autorevolezza, la credibilità o no delle persone, degli autori dei programmi, radiofonici, televisivi, per cui la gente dice: io mi fido di questa persona perché ho verificato, insomma, nel tempo una continuità di analisi di qualità, per cui io quel brand, che è un brand di persona, non la Rete 1, Rete 2, la Radio 24, no, cioè seguo gli autori, degli opinionisti. Però siamo sempre, Giovanni, sempre fermi al teorema di Ezra Pound: la libertà di parola senza la libertà di parlare al microfono vale zero. No, sì, ma noi adesso stiamo parlando appunto di chi, diciamo, della seconda fase, di chi ha conquistato il microfono, in qualche modo ha acceso. Però, scusa, c'è un punto però di partenza che secondo me non va mai dimenticato, perché noi parliamo del nostro mestiere, dell'informazione, dei mezzi, eccetera, che è la scuola. Cioè, e resta un fatto grave, secondo me, è che la scolarizzazione italiana non va bene. Cioè, ti ricordi quella statistica che avevamo usato? Il 34% degli italiani ha difficoltà di comprensione del testo. Certo, proprio di alfabetizzazione basic, cioè stiamo proprio al minimo indispensabile. Se ampliamo questo alle materie scientifiche, siamo agli ultimi posti, ultimi posti dei paesi OCSE. Se lo mettiamo sulle materie economico-finanziarie, siamo agli ultimi posti dei paesi OCSE. Cioè, c'è qualcosa che non va nel sistema educativo italiano, però, e che bisogna assolutamente migliorare. Non c'è dubbio. Abbiamo sentito anche che una delle cose sorprendentemente in positivo che colpisce di questo rifiuto è la richiesta di meritocrazia fortissimo, cioè un bisogno di sentirsi valutati realmente per quello che si fa o si è capaci di fare. Ecco, se pensiamo a questo nuovo governo, Questo nuovo governo va valutato in modo complesso, perché chi perde viene promosso, sembra quasi una meritocrazia in qualche modo capovolta. Sbaglio? No, non sbagli. Però è la reazione dell'animale ferito. E c'erano tante aspettative su questo referendum. Io sono convinto che l'intima idea di Renzi e dei suoi fosse di vincere, di stravincere. Un filosofo come Eugenio Mazzarella, che oltretutto è stato anche parlamentare del PD, ha detto una cosa vera interessante, cioè che il vero voto di pancia è stato il sì. Avevano davanti agli occhi una F grande, maiuscola, quella del futuro, per cui già il no veniva visto soltanto come una palude già alle spalle. E questo ha portato a una reazione inaspettata, cioè quella di riproporsi di nuovo in una meritocrazia capovolta, come dici tu, dove proprio chi ci ha messo la faccia ancora una volta si ripresenta, oltretutto offrendo già domani, per quando ci saranno le elezioni, un vantaggio enorme a chi li sconfiggerà. Comunque chi sarà contro, adesso diciamo sconfiggerà, certo, chi sarà contro li sconfigge. È un'ipotesi. Ecco, sì, questo è quello che pensi, diciamo, però questo governo quindi in un certo senso non aiuta la credibilità di Renzi e la mina, oppure invece essendo lui fuori potrebbe dargli fiato per poter ripensare, riprogettare e essere un nuovo Renzi nel momento in cui si ripresenta, Mario? No, lo poteva mollare. È molto semplice, è una questione di controllo del potere. Machiavelli insegna che se tu lasci le leve del potere poi è difficile che tu te le possa riprendere, quindi Renzi doveva stare fuori ma continuare a controllare. C'è il famoso esempio del Riecolo di Fanfani, sì. Non a caso toscano, quindi, cioè, come lui nel suo caso è soltanto quello che dice, quello che dice Pietrangelo è vero, cioè, sicuramente è un problema enorme per Gentiloni, va da sé, ma è considerato un prezzo da pagare in questo momento per il PD, diciamo, renziano, perché è una fase di assoluto stravolgimento di tutto, cioè il PD ha detto chiaramente a Gentiloni anche ieri in aula di nuovo: tu non duri abbastanza, certo, te ne andrai devi prima. Devi fare l'elezione e basta. La legge è l'elezione. Il dibattito è se si vota a maggio o a giugno, sì. Cioè stiamo parlando di questo. Va quindi. Bene. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangelo, eccola, dai che c'hai il microfono, parla a canzone. It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Allora? E allora c'era la tribù dei Dove te ne sei andata? Ah. Erano tutti per strada, avevano chitarre, armoniche, violini e pure un microfono per meglio gridare Dove te ne sei andata? Ha telefonato Werther, senza dolori, Giovanni, ha richiesto questa canzone con un messaggio. E Valentina, un caffè alle 10? Verrà, che dici? Mario, ci sarà Valentina alle 10? Figurati, Valentina c'è sempre. È già lì, no, ma si materializza, sì. È già là. Sì, allora, sì. Vai con la tua bolla. Beato lui che può. Beata lei. Sì, però anche un po' lui, un po' di musica da ballare. Del dottor Zapp, se vi interessa. Vorreste vedere i minori con le dita un po'. Fa molto. Fa molto Saturday Night Fever. Comunque. Sentiamola un po'. So what if you like all sweatshirt? I listen to Weezy. Dishes done in both respects. Allora, te la sei persa? No, non me la sono persa. Ce l'ho qua. Ci sono due cose oggi in agenda, diciamo, sulle bolle, nella mia pentola. Uno è il Consiglio europeo e l'altro è la Federal Reserve, anche per uscire da le miserie della nostra politica. E, però è l'esordio di Gentiloni come premier appunto a Bruxelles. E ho letto le anticipazioni che, sai, gli ambasciatori si riuniscono e fanno dei documenti che anticipano le conclusioni. Sono dei draft, si chiamano così, delle bozze che poi vengono ritoccate in fase finale dai leader. E, punti in agenda. Siria, c'è una dichiarazione finale, speriamo nella pace, naturalmente c'è un attacco a Mosca. Ucraina, si discute un'associazione del paese con l'Unione Europea e per alcuni però nasconderebbe degli obblighi di difesa militare ed ancora di fatto è una manovra contro Mosca. Difesa comune, il progetto accelera, così dicono, però l'Europa si spezzerebbe in due tronconi. Alcuni paesi farebbero subito, altri farebbero dopo, il che significa che alcuni pagheranno, altri no. Immigrazione non si decide non si deciderà assolutamente niente di significativo e sulla Brexit si farà una dichiarazione. Ma non bisognerebbe essere in piena trattativa per l'uscita? No, io avevo capito sì, così. No, lo sono, però gli inglesi giustamente sono molto abili. Per adesso non gli conviene. No, stanno là, sono tranquilli. Dice, vabbè, la Brexit sì, abbiamo votato, però aspettiamo un attimo. Quindi l'UE farà... Come se Renzi fosse rimasto al governo. Più o meno. Gli inglesi fanno così. Più o meno. Beh, però si sta salendo l'inflazione. Sta succedendo una cosa sui prezzi che bisogna guardare con grande attenzione. In ogni caso l'Unione Europea li solleciterà. La cosa, secondo me, interessante è l'atteggiamento sulla Russia continua ad essere, sì, non da falchi, però comunque come se a Washington non fosse successo niente l'8 novembre, è come se non fosse in corso. Vabbè, sono gli ultimi postumi dell'obamismo. Sì, però, sai, è persistente perché c'è il tic, è come un riflesso pavloviano, certo. Ed è sempre ma perché quello. È sempre la cosa più semplice da fare, quello che si era fatto prima, sì, fare la cosa nuova è la cosa più difficile. E quindi tu guardi le conclusioni che hanno preparato e dici, ma in che mondo vivono? Nel mondo degli ambasciatori, cioè, è una cosa, cioè, è un mondo a parte. Vabbè, affari loro. Salamino. Il bue si riconosce dalle corna, l'uomo dalla parola. Anzi, no. No. Oh, avevano detto. Non gioco più, me ne vado. Avevano detto, se vince il no, me ne vado. E invece, Giovanni, no. Restano tutti, sono tutti come Maria Elena Bostic. La sottosegretaria è stata ribattezzata così per avere smentito se stessa. Aveva detto: un gioco no, è rimasta attaccata, aggrappata, arroccata alla poltrona, perché se il bue ha la stalla, l'uomo ha la mobilia a cui non rinuncia mai. Per esempio, Giancarlo Padoan, o Padoan che dir si voglia, ministro dell'economia, aveva detto: non gioco più. Aveva detto, osservo una cosa banale, se il premier va a casa, tutto il governo va a casa. Si è visto, infatti. Lui resta. Chi è? Uscecco. Lui resta e per chi ci crede il ciuccio vola. Dario Franceschini, ministro della cultura, aveva detto: non gioco più. Oh, Giovanni, aveva detto: il ritiro in caso di vittoria del no non è una minaccia, è una constatazione. Ma infatti parlava di Renzi. No, tutti noi ha detto il ritiro, pensavamo fosse già alla stazione per tornarsene. E invece no. Per chi ci crede il ciuccio vola. Eppure la diversamente laureata Valeria Fedeli, ministro della scuola, che cosa aveva detto? La ministra della scuola aveva detto: non gioco più. Aveva detto il giorno dopo che ha vinto il no, tu ne devi prendere atto, non puoi andare avanti, tu è meschina, la diversamente laureata, è l'unica coerente. Aveva detto tu, non ha detto io, appunto. Altrimenti sarebbe stato un altro raglio del io. E anche qui comunque... Ancora. Per chi ci crede, il ciuccio vola, insomma, il bue si riconosce dalle corna, l'uomo dalla parola, invece no, il bue alla stalla, l'uomo alla poltrona e lo scecco vola. Ed è tutto, caro Giovanni, un Maria Elena Bostic. Dio. Costa la libertà, Giovanni. C'è ancora una... Costa c'è la ancora libertà. Una bolla. Sì, costa. Slow hand questo. If I can reach the stars, pull one down to you. Beh, insomma, questo è il grandissimo Eric. Giovanni, c'è un allineamento, vediamo quanto dura, come un po' quello dei pianeti che ogni tanto si allineano e sono fenomeni astronomici interessanti da osservare, tra presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, e Donald Trump. Tu dirai, toh, che strano, chissà chi comanda, chissà chi comanda. Però interessante, perché ieri, vabbè, hanno alzato i tassi, come sai ci saranno tre altri rialzi nel 2017, vediamo oggi cosa combina Wall Street. Però la cosa interessante è la valutazione sul prezzo delle azioni. Molti dicono che ci sia una bolla, è molto probabile che ci sia. I prezzi delle azioni sono 17 volte superiori alla media, secondo alcuni report, l'ultimo che ho letto è di Citi. Quindi qualcosa succederà prima o poi, è evidente, ma non sappiamo quando. Il rally potrebbe andare avanti molto a lungo, anche perché Trump si insedia a gennaio. Però lei, che prima diceva, la Yellen, che prima diceva la bolla c'è, oggi dice non do una valutazione sui prezzi delle azioni, quindi si fa più prudente. Evidentemente, questa è la lettura, c'è una prudenza istituzionale sua col presidente eletto, ma c'è anche la valutazione che forse la politica di stimoli fiscali di Trump possa portare veramente una crescita. Per ora siamo sulle aspettative. Si studiano. Esatto. Si studiano. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms pubblicità. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Mix 24. Io e altri di provenienza sempre Azione Cattolica siamo stati mossi dal sentimento patriottico, c'è lo straniero invasore e dobbiamo in qualche modo opporci a questa occupazione. Dopo l'8 settembre gli italiani si trovano di fronte a una scelta: impugnare o no le armi per combattere i nazisti che occupano l'Italia. Per i cattolici la scelta è anche di tipo morale: è giusto sparare per uccidere? Non credo che avessimo dubbi, perché era talmente chiaro il problema, dove stava la giustizia e dove stava il sovruso, in sostanza. Era talmente chiaro che noi combattevamo una battaglia contro un medioevo. Si fanno chiamare ribelli per amore e sono quei cattolici che decidono di imbracciare i fucili e di combattere al fianco dei partigiani sulle montagne. Sono anche quei sacerdoti che in città aprono le porte delle chiese per dare rifugio a ebrei antifascisti in fuga dai nazisti. Sei soddisfatto? Questa è la tua carità cristiana? Questo è il tuo amore per il tuo fratello in Cristo? Hai preferito vederlo ridotto così piuttosto che parlare, ma non sperare, prete ipocrita, di salvarti. Quando c'è chi ti sommerge, chi ti incombe, si incombe su di te la violenza nemica, e non so, insomma, bisognerà pure difendersi. Mario, vabbè, naturalmente questa pagina della storia poco conosciuta, ne parleremo dopo il giornale radio. Intanto, Mario, c'è una richiesta da te, da Franco, che dice: in Gran Bretagna sta crescendo l'inflazione. l'inflazione, l'hai detto tu effettivamente, sì. Ma da dove arriva il dato? Ce lo dice per favore? Sì. Ufficio Nazionale di Statistica, l'inflazione, i prezzi al consumo sono al massimo da 2 anni, se non è contento di questo puoi leggere il Financial Times, la BBC, il Telegraph, l'Independent. Vabbè, adesso non metterla giù così dura. Senti, adesso il professor Roberto Bernabei. Scusa, ma qua non è che giochiamo, che pettiniamo le bambole. No, cioè, facciamo il nostro lavoro. Col anche, professor anche Bernabei, lascio dire agli altri, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, novembre 2016. Effetti dello stoccaggio breve o lungo del sangue sulla mortalità da trasfusione. Beh, la domanda è abbastanza divertente. È meglio farsi trasfondere con sangue fresco appena raccolto oppure con sangue conservato per qualche settimana dentro il congelatore o dentro frigoriferi a bassa temperatura? Questa è la domanda a cui hanno risposto questi ricercatori, perché fino adesso c'erano stati vari studi che dicevano che non c'erano grosse differenze tra il sangue fresco e il sangue conservato, ma erano studi fatti su popolazioni molto a rischio, studi piccoli. Qua invece hanno preso 6 ospedali in 4 paesi diversi e hanno randomizzato i pazienti a ricevere o sangue appena raccolto o sangue conservato per un certo periodo. In genere si dice conservato per intorno alle 3 settimane. Erano oltre 31.000 pazienti, di cui 7.000, poi dei 20.000 analizzati, 7.000 con sangue fresco e 13.000 con sangue a lungo termine, conservato per lungo tempo, e la cosa interessante è che la mortalità è stata del 10% in entrambi i gruppi. È evidente che chi è che ha bisogno di essere trasfuso c'ha qualche problema evidentemente serio. Quindi la mortalità avviene, ma è una mortalità uguale nei due gruppi. Per cui se vi danno anche un po' di sangue a lunga conservazione, state tranquilli, va bene uguale. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi è disposto ad andare giù, giù nel profondo del mare, solo per amare senza fine. Eva, Voglio andare fino in fondo. Io voglio andare fino in fondo, finché non riesco più a capire laddove poi finisce il giorno e comincia un'altra notte senza neanche più dormire. Io voglio andare fino in fondo, fino a vederti anche sparire. Tanto lo sai che io ritorno sui miei passi appena in tempo, pur di non farti soffrire. Io voglio